La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Alla prima volta, lo avrete già capito anche dalle note che mi hanno introdotta, quella di oggi è una puntata bellissima perché l'ospite è Cristina Donà, un'artista capace di grandezze musicali ricche di poesia e ricerca continua. Nata a Rho, Cristina canta, è una bambina, il sogno di comporre musica è ancora lontano e resterà in qualche modo nascosto per anni. La Donà farà infatti il liceo artistico e poi l'Accademia di Brera, lavorando poi come scenografa. Eppure qualcosa è già iniziato. A Brera, negli anni 90, durante un'occupazione, Cristina suona e sente che quella è una strada, ma ancora non sceglie di percorrerla. Perché Cristina Donà, come sentirete in questa intervista, è una persona che avanza a passi ben posati e scegliendo davvero tragitti senza scorciatoie. Allora, questo nuovo album, sì, sono soddisfatta e difficilmente credo troverai un artista che a poca distanza dall'uscita di un album ti possa dire il contrario. Ho già omesso di ascoltarlo, cosa che reputo normale dopo averlo, come dire, masticato e vissuto per mesi, in questo caso quasi per anni, perché dopo Torno a casa a piedi, che è uscito nel 2011, io e Saverio Lanza, che ormai è da anni, dal 2008, la mia metà musicale, abbiamo cominciato subito ad affrontare altri brani, alcuni spunti, così, sia musicali che di testo. La cosa forse che mi lega di più a questo disco e che per ora me lo fa vivere in modo molto positivo è un desiderio, cioè il desiderio di esprimere, come dire, un'esigenza, un richiamo che è quello che ci porta più vicino agli altri, o comunque guardandoci però contemporaneamente da fuori. Adesso questo è un concetto un po' complesso, io riesco a essere complesso solo quando mi esprimo. No, però è un concetto chiaro che viviamo anche quasi nella quotidianità, questo, no? Di guardarsi anche da fuori, e che ha a che fare anche con i nostri mezzi di comunicazione, quelli che usiamo quotidianamente in qualche modo. Sì, ecco, a proposito di mezzi di comunicazione, forse la spinta è arrivata da un disagio anche che io sento e che è creato dal nostro atteggiamento, non tanto dai mezzi che abbiamo a disposizione, e da una dipendenza che si sta creando rispetto a questo modo di comunicare che c'è sempre più necessario, cioè sembra che il nostro pensiero sia spesso e quasi sempre collegato a un'aspettativa, a una risposta, a una notizia, a qualcosa che ci deve arrivare e di cui sentiamo, come dire, la mancanza se non arriva, cioè, ci sentiamo quasi persi o soli se non siamo in collegamento con qualcosa, con qualcuno. Questa è la sensazione che ho provato io negli ultimi anni, anche grazie al fatto, diciamo grazie sì, al fatto che l'album l'ho realizzato quasi totalmente, almeno nella fase compositiva, attraverso delle email che ci siamo scambiati io e Saverio, che abitiamo insomma, fisicamente molto lontani, quindi sto in una delle valli di Bergamo, che è la Val Seriana, e lui sta a Firenze. Quindi è questo stare continuamente sul computer per lavoro o comunque per necessità comunicative mi ha portato a farmi delle domande, che poi non è solo il computer, sono gli smartphone, delle domande magari anche banali, però le domande sono sulla trasformazione delle nostre abitudini, del nostro modo di comunicare, di questa fame nel riempire tutti gli spazi che abbiamo, tutti gli spazi della nostra vita, e il risultato, ecco, di tutto questo. Quindi l'album nasce un po' dalla voglia invece di parlare come se ci si guardasse negli occhi, ecco, senza mezzi che stanno tra noi e l'altra persona, di cercare quell'intimità per ritrovarla almeno. Questo era l'augurio che mi sono in qualche modo imposta, il mio scopo, se vuoi chiamarlo così, rispetto all'album, era proprio di comunicare e di far vivere un'intimità che spesso non ritroviamo più nelle nostre giornate. La musica sicuramente è un mezzo potentissimo per avvicinare le persone, per avvicinare le persone anche a loro stesse, ai sentimenti che provano, per farli risaltare in qualche modo. Ecco, io volevo chiederti a proposito di questo, seguendo un po' il tuo percorso iniziale, la scelta degli studi che hai fatto, quindi Brera, come sei arrivata alla musica? So che c'è sempre stata, però, qual è stata la molla che ti ha permesso di scegliere l'espressività artistica, cioè musicale, rispetto a quella invece più legata all'arte figurativa? Sembra, no, non sembra buffo, perché poi molti provano quello che sto per dirti, e cioè non sempre quando si fanno delle scelte nella vita, pur essendo convinti in qualche modo di averle fatte, ci si trova a proprio agio in queste scelte. Quindi io ho scelto il liceo artistico, l'Accademia di Brera, il percorso insomma, di scenografa e di decoratrice a un certo punto, e questa cosa mi gratificava, ma sentivo che sotto sotto c'era qualcosa che non mi soddisfava al 100%, e mentre la musica in qualche modo sia da ascoltatrice che da cantante, perché un pochino ho sempre cantato, come si può. Tutti possono cantare, insomma. Questa insoddisfazione, che era piccola, ma c'era durante i miei studi, anche durante i lavori che ho fatto, in qualche modo mi faceva sentire che c'era qualcosa che non andava nel mio percorso, ma non pensavo che la musica potesse diventare il mio mestiere principale, perché per tante ragioni. E poi c'è stato un momento in cui ho avuto la possibilità, un po' per gioco, di suonare davanti a delle persone. Tra l'altro, le prime mie esibizioni sono state all'interno dell'Accademia di Brera, occupata nel 1990, e sono cose che capitano sempre quando c'è un'occupazione, no? C'è chi programma la prossima manifestazione, chi si mette a intrattenere i presenti con la chitarra. Io ero una di quelle, oltre a fare altro, ovviamente. E lì ho capito che c'era qualcosa nel mio modo di cantare, di esprimermi vocalmente, pur cantando cover, canzoni di altri, che arrivava agli altri in modo abbastanza forte. La prima volta. Cristina Donà è una delle cantautrici che più ha influenzato il panorama musicale italiano. Amata anche all'estero, la storia artistica della Donà è fatta di ricerche, allontanamenti e ritorni intensi che illuminano la scena musicale e la impreziosiscono di collaborazioni e riflessioni. I dischi della Donà sono piccoli manuali di filosofia in cui tutto torna, anche il tempo che trascorre, i bambini che nascono, le idee che vagano e che si trasformano, le amicizie coltivate come tesori. Questa volta non è niente, è difficile spiegare, uscirò da questa porta. Dal 90 fino al 95 ho sempre portato in giro canzoni di altri, quelle che si chiamano cover. E anche lì, da un giorno all'altro, ho deciso che ero stufa di cantare parole scritte dagli artisti che amavo, perché dovevo assolutamente esprimermi con la mia voce. Ecco, una cosa che è proprio visibile del tuo percorso è proprio questo, cioè questa maturazione che non ha, cioè che non ha scosse, ma ha percorsi, no? Gradi che tu riesci a raggiungere via via e che hanno permesso anche a te come artista di affermarti anche a livello internazionale. Sei molto amata, hai un pubblico fedelissimo che apprezza proprio questo, no? Questa tua maturazione, questa tua ricerca continua anche nei temi, nei contenuti, no? Delle canzoni. Sì, intanto mentre descrivevi insomma questo percorso senza grossi scossoni, ma con una linea, no, che va da un disco all'altro abbastanza, come dire, non dico retta, ma quasi mi pensavo che è poi il riflesso della mia personalità. Ecco, io non sono una che fa gesti eclatanti o alla quale piace cambiare totalmente da un giorno all'altro, anche se una dei miei desideri è quello di presentare ogni volta qualcosa di diverso. Cioè, ogni disco è ovviamente il riflesso di un momento della vita, ma deve essere anche qualcosa di nuovo, perché prima di tutto potrei annoiarmi io, e poi credo sia anche giusto così, per un artista, cioè sperimentare cose diverse. Il peso e la responsabilità rispetto a quella che possiamo chiamare qualità del prodotto c'è sempre. L'ho sentita di più, forse il momento più difficile è stato quello tra il primo e il secondo disco, perché Tregua del 97, prodotto appunto da Emanuele Agnelli, è stato pluripremiato, cioè è arrivato questa valanga di riconoscimenti che ovviamente mi hanno fatto felice, cioè mi hanno resa comunque ancora più consapevole di questa mia dote, se vuoi, con l'aiuto ovviamente, insomma, il Tregua è il risultato della collaborazione di tante persone. Però ecco, da lì è stato difficile spostarsi, trovare anche una nuova dimensione, come dicevo prima, perché l'immagine che ne era uscita era quella della PJ Harvey italiana, no? Dark Lady, che mancava all'interno della musica cantautorale al femminile, anche che si stava un po' costruendo in quegli anni, e mi faceva piacere da una parte, però dall'altra mi ha messo addosso una paura notevole, perché io non volevo essere quella cosa lì e basta, perché non mi sentivo solo quella cosa. Quindi ho cercato di strappare quella foto virtuale e di creare un percorso che è partito da lì, e tante delle persone sono state che mi hanno aiutato a trovarlo. Di nuovo Manuel, con Manuel Agnelli, con il secondo album, è stato lui che mi ha trascinato in studio un giorno in sala prove, perché mi ha visto un po' in crisi, mi ha detto dai, andiamo a sperimentare, a buttare giù un po' di idee. Lì tra l'altro Lì è nata una canzone alla quale sono molto legata, che è Goccia, dove poi Robert Wyatt ha messo la sua firma musicale. Per quello poi per me le collaborazioni sono fondamentali, anche per staccarmi un po' da quel, per togliermi un po' dalle paure che provo rispetto alle aspettative mie, soprattutto. Perché tu, ho letto anche in un'intervista, tendi ad essere perfezionista, che detto così sembra niente, però chi vive questa cosa sa bene, no? Cosa significhi portarsi dietro questo peso e insomma avere la sensazione di dover chiudere, ma sempre un po' dopo, no? Rivedere le cose, eccetera. Per cui anche questo probabilmente gioca molto nel tuo di percorso. Sì, sì. Ed è un altro motivo per cui ho bisogno di qualcuno che guardi Sì. il mio operato da fuori, che mi dica: ok, va bene, Basta, chiudiamo, va ciao. bene così, non ti preoccupare, tutto a posto, respira. Sto migliorando con gli anni, anzi mi diverto sempre di più. Beh, il fatto di aver tra l'altro cominciato a collaborare con Saverio Lanza, proprio alla stesura dei brani nella parte musicale, mi ha aiutato molto questo alleggerimento, questo processo di semplificazione nel mio modo di scrivere, perché prima volevo assolutamente portare la canzone fino alla fine da sola per poi arrangiarla con i musicisti e con il produttore. Adesso non mi interessa, adesso il mio focus è fare delle belle canzoni. In questo senso, quanto la maternità ha velocizzato, diciamo, quello che hai appena descritto, questo percorso appunto di alleggerimento anche? È stata importantissima. Intanto lo alleggerisce per forza di cose, perché hai meno tempo, hai una nuova prospettiva di vita, un modo di guardare le cose che cambia. Quindi sì, lo è per tutti, credo, no? Nei propri percorsi di vita, la maternità o la paternità diventano proprio un nuovo inizio, danno un impulso diverso a tutto quello che ti accade nella tua vita. Ha creato nuove canzoni, la maternità come giusto che sia, ma anche una nuova modalità pratica di vivere anche questo mestiere. Quasi tutti i musicisti che conosco, che sono, vabbè, tanti sono uomini, quindi hanno un pochino, come dire, sono un pochino più tranquilli quando si muovono da casa, però tutti quelli che hanno figli vivono poi i concerti quasi come una vacanza, perché cambia proprio l'atteggiamento anche nel live, nel vivere l'esperienza musicale, che è una parentesi all'interno della vita complessa di un genitore. La mente mia ritorna a quegli occhi bambini, a giorni. Vi lasciamo in ascolto del brano che dà il titolo all'album, Così vicini. Vi auguro buona domenica. Se venite sulla pagina di Radio 24 e cercate la prima volta, troverete tutti i nostri contatti e il podcast per riascoltare questa e altre puntate. Grazie ancora, buona giornata da Cristina Carpinelli. Vicini, così vicini.